Questa settimana, come sa chi ci segue, ci stiamo occupando delle professioni dell'arte. Esistono i tradizionali ruoli che tutti conoscono, lo storico dell'arte, l'archeologo, la guida turistica, che è fondamentale a fini divulgativi. Un po' meno conosciuta, invece, è la figura del manager culturale, su cui ci concentriamo questa sera per capire quali sono le caratteristiche, le competenze, gli strumenti che usa, in quali ambiti. Per questo siamo in collegamento telefonico con Emilio Cabasino, che è il segretario generale di ECCOM, il Centro Europeo per l'Organizzazione e il Management Culturale. Buonasera e grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera a lei e buonasera a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Ormai tutti gli eventi legati all'arte, legati alla cultura, hanno bisogno di persone in grado di gestirli da un punto di vista economico, dal punto di vista contabile, organizzativo, di marketing. È questo che fa il manager culturale? Vede, già lei ha riassunto in poche parole alcune delle attività e delle competenze che il manager culturale dovrebbe avere. Diciamo che la mia opinione in proposito è che su una formazione di base che deve essere storica, storico-scientifica, è necessario nel tempo acquisire una serie di competenze che riguardano proprio gli ambiti che ha detto lei, cioè non soltanto essere capaci di riconoscere il valore culturale delle iniziative, ma saperle inserire in un progetto, saper organizzare un progetto, saperlo comunicare, saperlo finanziare e così via. Di sicuro ci deve essere una buona conoscenza di base del settore nel quale si opera. La conoscenza di base nell'ambito umanistico si acquisisce con gli studi universitari, appunto, di archeologia e storia dell'arte. Nell'ambito dello spettacolo sia con i corsi tradizionali e con l'attività di campo, insomma. Quello che lei ha delineato è l'iter ideale, quindi. Ma sì, io infatti anche sulla grande offerta formativa sul management culturale che si è sviluppata negli ultimi anni ho qualche riserva. 2 anni fa abbiamo censito tra formazioni di base, master di primo e di secondo livello, lauree specialistiche, circa 80 corsi in Italia. Sul sito della nostra associazione è consultabile un repertorio, però appunto non bisogna pensare che se uno segue un corso di manager culturale il giorno dopo che ha chiuso il diploma esce e c'è qualcuno che lo aspetta per fargli dirigere qualche cosa, insomma, ecco. Le sue riserve valgono per il presente o anche per il futuro? Mi spiego meglio, in Italia abbiamo un patrimonio infinito, quindi in potenza una grande ricchezza da valorizzare. C'è da pensare che in futuro queste figure siano sempre più richieste? Guardi, lei ha ragione, ma quello su cui per me si è sbagliato in questi anni è una corretta analisi dei bisogni, del fabbisogno di queste figure. E quindi la risposta è: la figura del manager culturale serve senz'altro. Purtroppo però non conosciamo quali e quanti ne servono nelle particolari situazioni del nostro paese, cosa che invece sarebbe opportuno fare. Non so se sono stato chiaro. Gli interessati possono avere delle informazioni attraverso il Centro Europeo per l'Organizzazione e il Management Culturale? Diciamo, noi a chi ci chiama o chi ci manda delle email cerchiamo di rispondere sempre dando qualche orientamento, però credo che nel prossimo futuro le risposte più concrete possono venire soltanto da un impegno delle università e degli enti locali, che potranno orientare in maniera più determinata chi si rivolge loro per avere delle informazioni. Noi possiamo dire qualcosa, ma non abbiamo un contatto così diretto poi con la domanda di lavoro, con chi ha bisogno di queste persone. In ogni caso il sito del Centro Europeo è www.ecom.it. Sì. E il segretario generale Emilio Cabasino è stato con noi, molte grazie. Grazie a voi e allora buona serata e a risentirci.